This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Buonasera a tutti, sì, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio, ciao buon a tutti. Buon pomeriggio. Grande Michele, anche tu ci sei stasera pomeriggio. Ma finalmente, sì, ogni tanto scendo, torno. Scendi dalle valli. Dalle valli, scendo anche io. Bene, siamo qui a Radio Città del Capo, 94,7, 96,250, le frequenze, questa radiolina di Bologna per far ascoltare un po' di quello che passava nella radiofonia mondiale in questo periodo, 88-94, facciamo così. E questo è un gran gruppo che viene da San Francisco, California. I Pasadenas. Sì, anche gruppo spalla. Parliamo naturalmente dei Faith No More, in giro dal 1982, ancora prima insomma del nostro periodo, però insomma il successo l'hanno avuto verso la fine degli anni 80, insomma dopo 4 lavori, poi hanno avuto davvero il gran successo commerciale, ma di questo parleremo dopo. Adesso parliamo un po' degli inizi, no? di questo gruppo che viene su da San Francisco, appunto nella baia di questa città californiana del sud, molto molto pericolosa per tanti aspetti. Infatti in un sondaggio fine anni 80 veniva fuori appunto che la metà della popolazione californiana del sud, se avesse potuto, avrebbe cambiato stato, un po' per la violenza, un po' per il mega traffico cittadino, e anche perché c'era questa spasmodica attesa per il Big One, il grande terremoto, che poi in effetti nell'89 avvenne. Big One nel 1989, per la precisione il 17 di ottobre, ebbe insomma questo 100 morti a San Francisco, quindi la gente era davvero un po' molto preoccupata per le cose. Però insomma, non so se i Faith No More si preoccupavano di questo. Tu che ne pensi, Bab? No, loro si preoccupavano di suonare, di divertirsi e di mescolare tutte le influenze che avevano assorbito in quelle lande, che comunque di buono avevano, che consentivano un discreto meticciato, almeno culturale. Insomma, dicevamo, una band piuttosto divertente, innovativa, mescolavano un sacco di cose. Per un adolescente di quell'epoca erano una gran bella cosa, perché ti davano la possibilità di entrare in mondi che erano veramente distanti tra di loro. Ricordo che gli anni 80 erano stati gli anni delle varie chiese, no? La chiesa metal, la chiesa hardcore, chiesa per dire parrocchie, che è più simpatico, diciamo, comunque ben distinte, con rivalità molto accese. Pochi gruppi, magari i primi erano stati Suicidal Tendencies a muscolare metal hardcore, sempre in California, negli anni 80, inizio degli anni 80. Ma tu ascoltavi Faith No More, c'era dentro veramente tutto, hip hop, funky, prog, perché c'erano le tastiere che sembravano uscite da un disco di Yes. C'era dentro del metal, ovviamente, anche dell'hardcore, perché alcuni pezzi sono molto molto rapidi, giusto? Sì, in effetti agli esordi si diceva appunto che era un gruppo che ancora cercava una via maestra, no? Però senza fossilizzarsi in un genere, quindi cercavano un po' un discorso abbastanza dissacrante. Forse un po' anche la Frank Zappa, no? Che veniva anche lui dalla zona, insomma, di San Francisco. Sì, era un minestrone che però, insomma, veniva seguito molto anche dai metallari. Infatti loro andavano in giro anche con DRA, insomma, gruppi metal. È stato un po' un post-metal, però anche un post-grunge, se vogliamo, no? O un pre-grunge. Sì, è un pre-grunge, però insomma, quando poi loro hanno il successo commerciale, il grunge era già morto, insomma, no? Alla fine degli anni 90 con King for a Day, insomma, quando ormai già comunque il successo commerciale l'hanno già ottenuto. E sì, insomma, le influenze ci stanno tutte, insomma. È un'evoluzione del rock a cavallo appunto fra il metal e il post-metal. E forse qualcuno ha detto che sono stati un po' troppo esaltati, sopravvalutati. Però insomma dipende poi cosa ci si aspettava. Se era per la seriosità del metal, sicuramente sono stati sopravvalutati. Ma loro, secondo me, da quando poi c'è stato la voce, il buon Mike Patton, insomma, di seriosità rifuggivano, no? We'll be right back. Faith No More, 1982-1998, dopodiché insomma hanno avuto un po' di chiusura del gruppo, scioglimenti vari, e nel 2009 sono riapparsi al pubblico e sono ancora in giro. E dell'anno scorso il tour fatto insomma Black Sabbath e Metallica, non in Italia purtroppo per noi, però insomma in giro anche in Europa, il gran tour, i mostri sacri del metal o post metal che dir si voglia. Gli zombie tornano, vabbè, ma ormai non si può parlare di zombie per nessun gruppo e per nessun genere, perché cioè la retromania, no, la studiamo ogni puntata. In calza. Niente, i primi due lavori, Wicked Lotto e appunto l'85 e Introduce Yourself, col cantato di Chuck Mosley, cantante di colore. Dopodiché arriva insomma il buon Mike Patton dai Mr. Bungle, e insomma il discorso un po' cambia, no? L'eccentrico appunto lui con la voce, insomma, che è un gran cultore insomma anche di Frank Zappa, del genere dissacrante, e lui insomma cambia un po' le carte in tavola per il gruppo, e da lì in poi insomma c'è anche un riscontro commerciale con The Real Thing dell'89 e Angel Dust del 92. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, che se non sbaglio The Real Thing, poi subito dopo la promozione live fu fatta niente meno che coi Metallica, quindi tour in tutto il mondo e via andare. Altra roba interessantissima è che dopo l'uscita sempre del Real Thing, che praticamente il 20 giugno 1989, Faith No More alla fine fanno il botto, detta come va detta, anche perché la loro particolarità erano il fatto che erano un attimino più pop dei Red Hot Chili Pepper, quindi comunque erano più fruibili anche dalle masse, con quel tono quasi, cioè, abbastanza orecchiabile, mischiavano talmente tanto, quindi con un certo gusto di fondo abbastanza importante. Molto molto importante il fatto che riuscissero a miscelare in maniera secondo me geniale le tastiere in contesti metal che apparentemente c'entravano veramente ben poco, ma riuscivano comunque in questo intento, e veramente hanno fatto la differenza. Non a caso uno dei pezzi di The Real Thing, Falling to Peace, fu addirittura incluso nella colonna sonora del serial Babies and Butte, il cartone strepitoso. Poi vabbè, cover dei Black Sabbath, War Pigs, chi non la conosce, pure i muri, insomma, quasi meglio dell'originale, decisamente. Non era facile fare meglio di un pezzo del genere. Ma altra cosa stranissima e secondo me interessante di Mike Patton è che, a prescindere dal fatto che sia bravo o meno, è comunque un grandissimo imitatore, cioè ha dimostrato che sapendo ascoltare in maniera abbastanza importante e accurata artisti che ti piacciono o meno eccetera, riesci poi alla fine a farli tuoi imitandoli, e poi li personalizzi, e non ha fatto altro che questo, cioè, anche per comunque vedere qua cinque individui, uno che arrivava da un mondo metal abbastanza estremo, quell'altro che faceva pop, quell'altro che faceva l'imitatore, insomma un bel mischione. Con dei litigi interni abbastanza importanti. Infatti ricordo al tempo alcune interviste, soprattutto di Mike Patton, dove loro prendevano molta linfa vitale dal fatto che comunque all'interno, durante le prove eccetera del gruppo, cioè litigassero in maniera molto molto accesa, perché alcuni arrangiamenti erano veramente dei parti dolorosissimi, e la cosa poi alla fine veniva poi uscirono i vari dischi, abbastanza uno meglio dell'altro secondo me. Yeah. Beh, con questo pezzo chiudiamo anticipatamente la puntata di This is not an exit. No, sto scherzando, però questo è un brano che sa molto di conclusivo, effettivamente. Sono le 16.03 minuti, non preoccupatevi, vi annoieremo ancora per una mezz'oretta scarsa. Comunque devo dire che si sposa bene il calando di Oi Giove de Vodo e Fate No More con questo pezzo di Pasadena. Sembrano quasi infatti dello stesso prodotto. Beh, l'epoca è quella. D'altronde non potevano essere tutto impermeabili, gli anni erano quelli. Più o meno la California è sempre quella, Pasadena, San Francisco c'è poco, insomma. Comunque, a proposito di California e di rivalità, perché prima si era parlato di rivalità e i Fate No More erano abbastanza rivali, una vetta da stadio con un gruppo californiano che erano appunto i Hot Chili Peppers. Dicevi te, Nicola, che all'epoca addirittura i Fate No More erano considerati la versione mainstream dei Hot Chili Peppers, una cosa impensabile. Vediamo i Hot Chili Peppers oggi. No, erano sicuramente più fruibili, nel senso che cioè effettivamente sono molto più orecchiabili. I Hot Chili Peppers avevano delle robe talmente crossover quasi inascoltabili, certo, al tempo. Adesso è un'altra roba, certo, cioè... certo, erano molto meno pop, non avevano questi così stacchi quasi soul, quasi swing, non erano proprio veloci Peppers, questo non c'era. Ma fu una rivalità abbastanza forte, perché ricordiamo cosa successe. Nell'87 i Doci Peppers persero per morte il loro chitarrista Idel Slovak, e i Fate No More improvvisarono uno spettacolo di cattivissimo gusto durante un live in cui impersonarono il fantasma di Le Slovak, prendendolo in giro. E ciò scatenò le faide tra i due gruppi, che erano già rivali per questioni di commerciali e artistiche. Questo mi mandò proprio su tutte le furie all'epoca i Flea e Anthony Kiedis, i due leader, che chiesero un po' la testa di Mike Patton per questo scherzo di cattivissimo gusto. Un po' come i gangster rapper. Esatto, esatto. Poi tra l'altro ci fu anche una sorta di disputa su chi dei due tra Mike Patton e Anthony Kiedis avesse lo stile più originale, chi avesse creato per prima quello stile che poi andavano a ricreare sul palco. Anthony Kiedis sosteneva che Mike Patton gli aveva fregato. Mike Patton diceva: no, l'abbiamo fregato insieme a Iggy Pop, sei stato te che gli hai fregato, io ti ho seguito. E forse ci aveva anche vabbè, ragione. E Iggy Pop di tutta sta diatriba cos'è che ha detto? Oh, ma che cazzo, ma chi vi conosce? Ma in quegli anni Iggy Pop mi sai che fosse un po' dimenticatoio. Sì, mi dispiace. Sì. E tutto questo va a concludersi, per modo di dire, 10 anni dopo, quando nel 99 con i Mr. Bungle Mike Patton fa uscire un album di nome California, e nel giro di pochi mesi i Chili Peppers escono con un altro album di nome Californication, e lì Mike Patton dice: vabbè, allora siete voi che ve la cercate. Insomma, morale della favola: se volete fare un gruppo e partecipare alle simpatiche faide, andate in California. Yeah. You want it all, but you can't. Non lasciatevi ingannare, siete sempre all'ascolto di This is not an exit, siete su Radio Città del Capo e sono le 16:11 minuti primi. Stiamo parlando di una masnada di 5 simpatici californiani che sdoganarono un sacco di generi e ebbero anche un notevole successo, anche in Europa. Sì, è vero, ma al punto che aprirono nuove porte per quanto concerne il discorso crossover. Adesso, visto che siamo in vena di curiosità e di gossip o qualcosa del genere, ancora prima del primissimo cantante che a Rosario si chiamava, non mi ricordo nemmeno. Chuck Mosley fece addirittura il provino a una certa Courtney Love, di cui si ridacchiava poco fa con Rosario, insomma, che comunque faceva parte del giro, se non sbaglio, no? Beh sì, lei comunque è figlia di un componente dei Grateful Dead, quindi da bambina ha respirato un certo ambiente e poi si è trovata pure a fare la... No, ma non soltanto il provino, perché comunque in certi pezzi di primi lavori c'era pure lei alla voce, insomma se si guarda sugli ex componenti del gruppo compare anche il nome di una sconosciutissima naturalmente Courtney Love, che poi vabbè abbiamo conosciuto sia per essere stata la moglie di Kurt Cobain sia la cantante delle Hole, però all'epoca era ragazzina, insomma sui 16-17 anni, ecco. Ve la faremo sentire, un po' più grandicella. E poi altra roba secondo me interessantissima è che secondo me in tutto sto giro qua dove Mike Patton stava al di sopra di tutto e di tutti in vetta, è sempre stato passato un attimino nell'ombra la mente, secondo me, che era un certo Big Jim Martin, che era il chitarrista, che non se lo cagava nessuno, però secondo me era il più figo di tutti in assoluto, nel senso che dopo la sua fuoriuscita poi c'è stato il declino totale del gruppo. Era l'antichitarrista. Sì, questo per me era curiosissimo, cioè, appena catapultato dai Black Sabbath in un contesto completamente fuori luogo, era figo. Sì, Jim Martin che lascia il gruppo poi prima dell'ultimo lavoro, no? Prima di Album of the Year, lui fino al 95 è stato col gruppo. Dopodiché per l'ultimo lavoro, e infatti poi fu il canto del cigno, appunto, Album of the Year del 98, se non sbaglio, e dopodiché insomma il gruppo si sciolse, e poi vabbè, adesso sappiamo, però ancora lavori non ce ne sono stati dopo la ricomposizione del gruppo. Ma quanto era bello con due occhiali, gli occhiali rossi sopra e gli occhiali sole sopra. Un gran personaggio, sì, infatti. Un modello da mare. Era lui. But I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big store on the borrow. Yeah. Why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. It's why I'm easy. Yeah, I'm easy like Sunday morning. Thank you. like Sunday morning. Capace addirittura di fare un pezzo strappalacrime che i Pasadena a confronto. Sì, però senti che feeling, senti che groove. Però una puntata così Pasadena si vuole, anche due. Sì, i groove magari non ce l'avevano, però erano capaci di fare dei pezzi a Frank Sinatra, che poi uscì dopo Angel Dust, non si capì perché, non l'ho mai capito, non lo capivano, secondo me non lo capirono neanche loro. Ma d'altronde un po' magari per esigenze commerciali, un po' perché si divertivano, ma era anche il loro punto di forza, cioè MTV comunque in questo modo riusciva a farli girare, erano cinque personaggi che sapevano suonare, avevano idee abbastanza chiare e furbescamente, secondo me anche molto furbescamente, un po' perché erano molto colorati e apparentemente spensierati, perché poi i brani erano il nonsense, poi uno andava a leggersi i brani, io mi ricordo leggendo alcuni testi tipo Be Aggressive o, insomma, o A Small Victory, che parla dell'inflazione ma in una maniera demenziale, dice ma che cacchio dicono questi, anche perché i testi non c'entravano niente con la musica. Un ottimo modo per infilarsi nei canali di comunicazione. È anche un po' la caratteristica di quei gruppi, Primus, Red Hot Chili Peppers, tutti i gruppi che scrivevano testi con un nonsense abbastanza spiccato. Tutti californiani. Tutti californiani. Tutti figli di Frank Zappa, come diceva prima il buon dottor Scarpa. E anche dei Dead Kennedys, volendo. Dei Yellow Biafra, perché cioè, bisogna sempre citare il buon Yellow. Però. Anche lui di San Francisco, se non sbaglio. Ah certo, si candidò pure per diventarne governatore della California, arrivò quarto, altri mica tempi. Male. Immagino se fosse diventato governatore della California, ancora avremmo avuto un'infilata di gruppi. Un nonsense! Avvolgente. Ci saremmo trasferiti tutti in California. Ma sì, ma direi di sì. Sì. In teoria. Ma siamo ancora in tempo, o no? No, i Dead Kennedys non esistono più e Yellow Biafra non è governatore, non l'è mai diventato. Però poteva andare diverse vete. Construction in the fields, the bodies burning as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Bye. this world stops turning. This is where the body's burning. No more war pigs have the power. Hand of God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. Pigs crawling, begging mercy for their sins. Satan laughing spreads his wings. Beh, su questa bellissima versione di Faith No More, fatta, che rifanno un brano dei Black Sabbath, rendendo doveroso omaggio, ma ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, era un po' l'epoca, si cominciava a fare, si erano sempre fatte cover fino agli anni 70, però insomma, in questi anni 80 magari barili cominciava a essere un po' al fondo e i riferimenti erano facilmente accessibili, perché comprare dischi comunque... Insomma, i repertori del passato erano molto ben disponibili e la gente era cresciuta appunto con riferimenti che non si premurava più di nascondere più di tanto. Ma poi ci sta a unire il nuovo al vecchio, comunque queste qui erano le basi da cui sono partiti, siamo partiti in tanti, quindi cioè, ci sta pure dentro. Non sono stati i miei primi, non saranno i primi e continuano ad esserci, e ben venga che ci siano le cover nei dischi, insomma. Beh, con questo salutiamo, ci sentiamo... sabato prossimo, sempre su Radio Città del Capo, dopo il GR, quindi tra le 15.39 e 15.40 più o meno. Va bene. E sarà una puntata insolita, Babe. La prossima la vedo molto più Pasadena style, non so se spiego. Una puntata sull'insolito. Bellissimo. Va bene, allora a risentirci sabato prossimo, dai. A sabato. Ciao. Grazie a voi, insoliti ascoltatori.